Questo è un libro che ho scritto traendo le notizie che voi leggerete dai giornali dell'epoca. Voglio sottolineare questa circostanza: io non sono uno storico, io sono un giornalista e i libri che scrivo, e non sono pochi, ne ho scritti finora 23, compresi quelli relativi a vignette, che naturalmente col giornalismo hanno poco a che fare. Oddio, no, anche le vignette hanno a che fare con il giornalismo, ma in un altro senso. E ogni volta ho sfogliato pagine su pagine, ho sfogliato giornali dal 1900 al 1950, scrivendo altri libri come Bolzano scomparsa. Il prossimo volume di Bolzano scomparsa uscirà il 10 dicembre, sono tante storie su Bolzano relative a fatti di cronaca, situazioni, personaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo invece è focalizzato proprio sul periodo 40-45, per la verità 46, e vi dirò poi perché 46. 40-45, gli anni della guerra, Bolzano è entrata, cioè l'Italia è entrata in guerra nel 1940, e da lì noi partiamo. I giornali che ho consultato sono La Provincia di Bolzano, giornale fascista che è stato fondato nel 1927 ed è stato chiuso nel settembre, dopo l'8 settembre del 43, poi è stato chiuso insieme ad altri giornali locali come il Dolomiten stesso, come l'Alpenzeitung, e fu sostituito dal Bozner Tagblatt, giornale nazista che monopolizzò i cervelli in quel periodo fino al 1945, quando vennero gli americani, la liberazione, e nacque il giornale Alto Adige. Quindi io ho consultato la Provincia di Bolzano, il Dolomiten, il Bozen Tagblatt, il giornale Alto Adige e poi altre fonti ancora che potrò citarvi, come Bombe su Bolzano, no? E come Gli anni delle bombe, edizioni Seta, Mario Ferrandi, Gian Pachre, Luigi Sardi, anche quello è un libro scritto da giornalisti. Comunque ho cercato di dare un quadro completo di quello che avveniva a Bolzano in quegli anni. È un motivo per me interessante questo, non sotto un profilo storico, statistico e cose del genere, ma molto più e semplicemente traendoli dalle cronache. Cosa raccontavano le cronache allora? Le cronache quotidiane, le cronache della fame, della paura, anche del divertimento, se volete, ci si divertiva anche, però cosa curiosa, a un certo punto non ci si poteva più divertire. Per esempio, fu fatto divieto in periodo di guerra, un po' più avanti degli anni, di divertirsi, di ballare anche a casa. I carabinieri arrivavano, quando sentivano della musichetta arrivavano e controllavano, e se qualcuno suonava la fisarmonica in casa e c'erano altri che ballavano, erano contravvenzioni, casi curiosi che nel libro vedrete citati. Le canzonette, per esempio, dovevano essere italiani, non inglesi, insomma, ci sono tutti risvolti curiosi che ho voluto sottolineare per proporveli, per farvi capire anche come si viveva allora. È un modo diverso da vivere, impensabile. Vedo molti capelli bianchi tra di noi, all'epoca eravamo tutti molto più giovani, io avevo 9, 10, 11 anni, sono stato figlio della lupa e balilla, ho ricordi precisi, e anche voi avete ricordi precisi, ho anche ricordi precisi di bombardamenti, di uno in particolare ve lo racconterò dopo. Sono cose che hanno per noi un significato, per noi anziani, dovrebbero averlo, spero che lo possano avere anche per i giovani e soprattutto i giovanissimi, che non possono immaginare quello che Bolzano viveva e sopportava in quegli anni. L'Italia scende in campo, ecco che incomincia la guerra è già iniziata nel 1939, come sapete. Hitler invade la Polonia, il problema quella volta era rappresentato dal cosiddetto corridoio di Danzica, e la provincia di Bolzano, di cui vedete adesso la testata, la storica parola del Duce da Palazzo Venezia, e questa è piazza Vittorio Emanuele III a Bolzano, l'odierna piazza Walter. Come vedete al centro non c'è il monumento a Walter von der Povergewalde, che era stato allontanato nei cosiddetti giardini Rosseger, che si trovavano nella prossimità di Ponte Druso. Secondo le cronache di allora, a Bolzano confluirono 40.000 persone, non so se sia vero, ma potrebbe potrebbe anche essere vero. Vedete il tram qua in fondo, lo riconoscete? Il tram di allora, quella vecchia carioletta, l'avete sicuramente, qualcuno di voi l'ha provato. Ecco, questo è uno di tanti personaggi che ho incontrato e che mi hanno raccontato cose. Questo è l'avvocato Barbato, l'avvocato Mario Barbato di Bolzano, tuttora vivente, che ha combattuto in Nord Africa, comandava una squadrone di carri armati, ha combattuto anche alle dipendenze, agli ordini del maresciallo Rommel, del quale aveva a tuttora una grandissima stima. Dice che era un generale che scendeva in campo e non stava nelle retrovie, solo che purtroppo i carri italiani erano abbastanza fragili nei confronti di altri. Pensate che questo cannoncino riusciva a perforare una corazza a 800 metri, i cannoni inglesi a 1200 metri e quelli tedeschi a distanze ancora maggiori, però quelli tedeschi erano minore in numero rispetto a quelli inglesi, quindi la ritirata, come sapete, non sto a raccontarvi la storia, Montgomery insomma riuscì ad allontanare Rommel dopo El Alamein, e poi ci fu lo sgombero di quella che era stata la nostra Libia. Andiamo avanti, maresciallo, il tenente Barbato, che vedete in questa immagine, fu decorato di medaglia d'argento, tra l'altro meritò, cosa accadde? Tra l'altro che conducendo la sua squadrone all'attacco per liberare l'Ariete e la Trento che stavano per essere accerchiate, guidò l'operazione col portellone aperto, cosa che non era consentita, era vietata, ma lui mi raccontò che col portellone chiuso non riusciva a vedere niente. E allora si beccò una scheggia in testa. Questi erano i discorsi del Duce in precedenza. Sapete dove siamo qua? Qua siamo in via, non so se la riconoscete. Via Leonardo da Vinci, esatto, questa è via Leonardo da Vinci. Qua sulla destra, dove c'è adesso la targa a Raffaello Sernesi, pittore garibaldino, macchiaiolo morto a Bolzano dopo gli scontri di Bezzecca nel 1866, qui c'era la casa del fascio, che era chiamata Casa Littoria. Da lì si potevano sentire i discorsi, perché venivano piazzati degli altoparlanti, si sentiva la voce del Duce, si ballava lo stesso, come vedete in precedenza, fino ad un certo momento, poi non più. Pensate che all'epoca, l'avete sentito anche recentemente in televisione, fecero la storia del trio Lescano, no? Il trio Lescano che andava per la maggiore, che a un certo punto dovette lasciare perché si accorsero che queste non solo erano olandesi, cioè non erano italiane, ma erano addirittura ebrei, non sia mai detto. Questa è una foto curiosa che vi racconta un momento importante di Bolzano ed è l'impianto, l'entrata in funzione dell'impianto di nettezza urbana, perché Bolzano, pensate, le fognature le ebbe soltanto negli anni 30, prima di allora c'erano dei rigagnoli, delle rogge che percorrevano Bolzano e là si buttavano le immondizie. E non veniva fatta la raccolta casa per casa, come qui vedete. Il discorso era, naturalmente c'erano molti problemi di igiene, e allora durante il fascismo si istituì questo servizio, che era il servizio dell'ASPA, non so se ve lo ricordate, ecco. E qua sono tutti questi mezzi, è molto curiosa e bella questa foto, perché per far vedere i mezzi che c'erano all'epoca, si piazzarono dove? Davanti al monumento alla vittoria, dissacrandolo in parte, a mio modesto avviso. Questi erano i camion che portavano i bidoni che venivano ritirati di casa in casa, e che erano i camion che funzionavano a batterie elettriche, in un certo senso, quindi avveniristici. E questa era l'innaffiatrice, ve la ricordate, che passava per le strade di Bolzano e spruzzava acqua. Anche questa, vedete qua dietro la cisterna, anche questa è trazione elettrica. Questi sono i bidoni degli spazzini, che allora si chiamavano spazzini, oggi sono operatori ecologici, che vedete tutti qua in fila. E notate un particolare curioso: questi spazzini hanno tutti la camicia bianca con la cravatta. pensate l'importanza che si dava all'epoca a fotografie come questa, per esempio. Notate un'altra cosa, le incis qua, e gialli, sono le incis come erano una volta, prima che fosse costruita la piazza, fosse realizzata la piazza seconda, e dagli ancora, ho il pollice grosso, avete capito? E di riflesso mi scappa sui bottoncini. La piazza fu poi sistemata secondo i dettami del razionalismo fascista, diciamo piacentiniano, eccetera, con tutte quelle case squadrate, tipo le città d'Italia di De Chirico, e queste case che avevano una loro eleganza, assomigliavano alle incis che vedete in via Carducci adesso, furono raspate, fu tolto ogni frontone, ogni timpano, ogni colonnina per ridurle a dei cubi. Questo l'avete già visto alcune volte, qua ci sono all'epoca in piazza, anzi allo stadio Druso, manifestazioni ginniche, il fascismo fu un precursore in questo senso, anche in epoche precedenti già si facevano queste manifestazioni collettive, ma di questa grandezza mai. Il fascismo fu poi copiato dal comunismo e dal nazismo. Le case del rione Dux, le semi rurali, erano le case del rione Dux, questa è la chiesa di Don Bosco, e quelle più, un pochettino più sopra, verso via Torino, era il rione Littorio. Questo è Roman Gasser, che è mio amico, del quale parlavo in precedenza, ha 93 anni adesso, vive tuttora, è stato hockeista tra l'altro, ma soprattutto pilota. Roman Gasser, che vive adesso a sopra Bolzano, era un appassionato di volo, aveva la vocazione del pilota, voleva volare, e quindi in epoca ancora prebellica, vediamo se riesce a passare il signore, sì, in epoca prebellica ebbe accesso all'Accademia Militare, all'Accademia Aeronautica a Pola e nei paraggi. Ecco, volò per la Regia Aeronautica, bombardò, fu impegnato nella guerra civile in Spagna, e quindi bombardò i Paesi Baschi e Barcellona, naturalmente era dalla parte di Franco e non dei repubblicani. Poi optò per la Germania, fu arruolato nella Luftwaffe. Con la Luftwaffe bombardò Londra, tra l'altro, la battaglia d'Inghilterra, poi fece voli sull'Unione Sovietica, Smolensk, Kiev, mi ha raccontato tante cose, fece voli di rifornimento per l'Africa Corps di Rommel, trasportando benzina a Derna in Nord Africa, ritornava tutte le volte con un carico di feriti, era polivalente come pilota, nel senso che guidava non solo bombardieri, ma anche aerei di caccia, e mi ha raccontato di avere vissuto numerosi episodi di guerra aerea tra caccia nei cieli della Gran Bretagna. Fu decorato per avere superato le 50 missioni di guerra, il resto mancia naturalmente. Ecco, Robert Gasser. Questo qui è velocemente, è una curiosità, questo è il Corso Giulio Cesare, ve lo ricordate? Questo qua è il palazzo del Littorio cosiddetto, sono cose che sono state costruite successivamente, anzi non è neanche il palazzo del Littorio, perché questa Illetta c'è ancora, sto vedendo adesso, il palazzo di... esatto, no, è qui che hanno costruito la casa del Fascio, esatto. Ecco, il Palazzo Rossi è questo, Palazzo Rossi è questo. No, questo è un edificio che è stato poi abbattuto, che era una specie di convento, un collegio convento delle suore. Questo incrociatore dice, ma cosa c'entra? Fa, noi abbiamo al massimo l'Agricaldaro. Questo incrociatore è l'incrociatore Bolzano, ebbe una sua storia, fu costruito insieme agli incrociatori Trento, Pola, Zara, Fiume. Fu una classe particolarmente efficiente, il Bolzano combatté in vari scontri, tra cui Punta Stilo, Capo Matapan, alla fine fu però centrato da un sommergibile britannico, rientrò, fu trascinato, fu rimorchiato alla Spezia per riparazioni e lì lo sorprese l'8 settembre, se ne impossessarono i tedeschi e a questo punto divenne un obiettivo per gli inglesi. E allora cosa fecero gli inglesi? Insieme a degli italiani, Decima Mas, ma non era più la Decima Mas, erano, vi ricordate i maiali, quei siluri e sotterranei comandati dall'uomo che furono inventati dagli italiani praticamente. Ecco, con quei siluri italiani ed inglesi affondarono definitivamente l'incrociatore Bolzano. Questa è una brutta fotografia che presa dal giornale La Provincia di Bolzano, la resa è quella, e ecco questo esattamente, questo qui è l'ingresso sud della Galleria del Virgolo, dove potevano trovare posto migliaia di persone, dove furono installate una fabbrica, fu installata una fabbrica di cuscinetti a sfere della IMI di Ferrara, cuscinetti a sfere che naturalmente servivano a scopi bellici. Qua non so se c'è nel libro, ma penso di sì, lavorò anche come istruttore il mio amico geometra Mirko Zizzola, non so se lo conoscete, che tra l'altro mi raccontò come da qui riuscì a fare fuggire una detenuta ebrea, perché qua lavoravano i detenuti del campo di Viaresia, del lager di Viaresia, che tutte le mattine qua venivano e lavoravano qua. Tra gli altri ci fu anche Misha Seifert, che è morto pochi giorni fa, del quale Mirko Zizzola mi ha raccontato che gli puntava la pistola sul naso, specialmente il giorno che scomparve questa giovane ebrea, perché Seifert non riuscì a sapere chi l'aveva fatta fuggire. E questa è la pagella di Ettore Frangipane. All'epoca le pagelle erano queste, erano, come vedete, belle, chiassose, siamo tutte aerei in picchiata. Io ho tre pagelle, di quelle del 40, 41 e 42, sempre con dei bravi e dei bei voti, ero lodevole dappertutto, ero lodevole anche in cultura fascista. Non ho mai capito da ragazzino cosa fosse la cultura fascista, comunque mi davano l'onorevole. Arriva l'8 settembre, il sovrano assume il comando di tutte le forze armate, il re viene, cioè Mussolini viene esautorato, la storia la sapete, non ve la sto a ripetere, e qui è una tragedia. A Bolzano arriva l'Alpenvorland, arrivano i tedeschi che si impadroniscono della situazione. Questa è una foto però che non so se risale a dopo l'8 settembre o prima, perché Bolzano subì il primo bombardamento il 2 settembre del 1943. Vedete qua via dei Portici? Questo è l'Isarco, questo è il Virgolo, vedete? Vedete questa crocetta qua? Il parco Rosegger, al cui centro c'era il monumento a Walter von der Vogelweide, qua spostato. Gli aerei americani, questa è una foto naturalmente tratta da un aereo americano, erano i B-17, le cosiddette fortezze volanti. Perché fortezze volanti? Perché erano autosufficienti, nel senso che non avevano bisogno di supporto, del supporto della caccia come loro difesa, perché a bordo avevano tutta una serie di postazioni di mitragliatrici che consentivano pertanto una notevole forma di autodifesa. Un B-17 caricava normalmente 10 piloti, 10 aviatori, il comandante, il secondo, il navigatore, il marconista, il bombardiere, gli altri erano i mitragliatori che stavano uno a poppa, uno a prua, uno sul dorso, l'altro sotto il dorso. Se ho fatto bene l'elenco dovrebbero essere 10, non so se ci ho azzeccato. I bombardamenti di Bolzano, della città di Bolzano, furono in tutto, compresi quelli del solitario Pippo, il cacciabombardiere solitario, furono nel complesso 23, che non sono pochi. I morti furono accertati dallo studio di un maresciallo Rizza, Mario Rizza, che ho citato di recente, parlavo con un collega qua, furono 240, senza contare i morti tedeschi, cioè, intendo dire i soldati germanici che non rientravano nel computo. Le case di Bolzano rase al suolo furono oltre 250, 254, quelle gravemente danneggiate 450 e oltre, quelle comunque danneggiate oltre 1300. Bolzano pertanto fu la seconda città, il 62% delle case fu danneggiata, fu la seconda città nel Triveneto dopo Treviso quanto a danni subiti. Naturalmente la zona obiettivo era questa, cioè la stazione, il ponte sull'Isarco che è qua sotto, che ci sono tutte bombe che esplodono come voi vedete, qua c'è il virgolo qua sotto, questa è piazza Walter, che all'epoca si chiamava piazza Vittorio Emanuele III. Questa è una fotografia di una macchina saltata in aria, una macchina militare saltata in aria per un bombardamento in via Wegenstein il 2 dicembre del 1943. Dunque, all'epoca, come ho detto in precedenza, c'era il solo giornale Bozner Tagblad nazista che raccontava le cose che avvenivano a Bolzano. Il Bozner Tagblad non parlava dei bombardamenti, proprio era un fatto che non avveniva. In pagina di cronaca compariva magari uno scritto su come conservare le patate, ma non che Bolzano era stata bombardata. L'unica volta, due o sole volte citò bombardamenti, in questa occasione il 2 dicembre e poi il 25 dicembre del 43 stesso anno. Il 2 dicembre perché? Perché su questa macchina viaggiava il Gauleiter della provincia di Bolzano, non dell'Alpenvorland, quello dell'Alpenvorland era Franz Hofer, questo era Peter Hofer che saltò in aria centrato insieme a due SS che viaggiavano con lui e all'autista. Ci furono, quindi essendo morto il Gauleiter non si poteva non dire, nella prima notizia parlava di Terrorangriff, no? Cioè un assalto terroristico, diciamo così, un attacco terroristico, non parlava di aerei. Poi fecero grandi, e la cosa si seppe, fecero grandi funerali in piazza del municipio dove quel che restava delle salme fu esposto naturalmente nelle bare. Poi Peter Hofer, che vedete qui a sinistra, a Castelrotto, durante il funerale di un suo parente, questo è suo fratello, questo è suo padre, fu la salma di Peter Hofer fu trasferita a Castelrotto e lì riposa. 8 settembre, siamo ancora all'8 settembre, ecco il corpo d'armata, notate qui davanti la croce sabauda, un fascio, un altro fascio, adesso non ci sono più, e vedete questo balcone colpito da una cannonata di un carro armato tedesco. L'avete visto prima il carro armato del povero tenente Mario Barbato, guardate che po' di roba che avevano i tedeschi, questi erano veri carri armati. Qua davanti per la presa del corpo d'armata morirono 34 persone, in gran parte soldati tedeschi e in parte anche soldati germanici. A Bolzano ci furono vari morti l'8 settembre, tra l'8 settembre e il 9 settembre. E qui, sempre dopo l'8 settembre, truppe tedesche entrano a Bolzano attraverso la strada del Brennero, notiamo che la Germania era vicinissima, nel senso che la Germania dopo l'Anschluss arrivava al Brennero praticamente. Questo è un carro armato che entra a a Renzo e voglio farvi notare com'era, vedi, non c'è asfalto, ma se voi notate sono ciottoloni, vi rendete conto di come era scomodo andare in bicicletta allora? Qua il benvenuto ai tedeschi che stanno arrivando da parte della popolazione sudtirolese che festeggiò l'arrivo, in gran parte quantomeno, l'arrivo dei tedeschi, perché per loro cessava la sudditanza nei confronti degli italiani del fascismo, potevano finalmente parlare la loro lingua, tornare finalmente alle loro tradizioni, non si rendevano conto che il salto era dalla padella alla brace però, perché il nazismo fu molto, ma molto, ma molto più pesante, ci furono, derivò più avanti, processi, condanne a morte, fucilazione e di tutto. Ancora tedeschi, questi in piazza Walter, anzi piazza Vittorio Emanuele III col tram, vedete qua l'hotel città, tedeschi che marciano ai piani di Bolzano, alle case semirurali, probabilmente vanno in direzione del lager di Viareggio. Queste sono ausiliarie tedesche. A Ponte Talvera, voi vedete che anche Ponte Talvera hanno ciottoloni qua, no? Vedete i binari del tram e per il resto ciottoloni. Questi sono invece ufficiali italiani presi prigionieri che stanno andando alla stazione per essere caricati sui carri merci ed avviati in Germania. Bombardamento, chi voglia fargli vedere le bombe? Vedete l'aereo, evidentemente l'aereo che ha sganciato le bombe, e fotografa anche, le bombe cadono, la traslazione dell'aereo le porterà a cadere più o meno qua, nella zona dove già altre bombe sono cadute, qui siamo sempre nella zona sotto il Virgo dove ci sono gli impianti ferroviari. Voglio farvi notare una cosa, questa è via Corso Cesare Battisti, oggi Corso Italia, questa è via Roma, che si chiamava all'epoca via del Littorio, vedete non c'è neanche una casa ancora qua, questo era ponte del Littorio, che oggi si chiama Ponte Roma, vedete come tante poche fossero le case allora. E poi vi propongo questo personaggio, che ricordo personalmente, questa foto non c'è nel libro perché sono riuscito ad acquisirla solo dopo. Adesso vi racconto un po' la storia di questa foto. Il 25 dicembre, giorno di Natale del 1945, io ero al Colle con la mia famiglia, avevo 9 anni, che avevo compiuto il giorno prima. E insieme a due famiglie di amici, i signori Ferrari, lui era il comandante dei Vigili del Fuoco, e i signori Halfer, lui era un primario pediatra ospedale di Bolzano, e avevano organizzato un pranzetto. Viene l'allarme, il mezzogiorno del giorno di Natale, e si corre in cantina, nella cantina del Klaus, del ristorante Klaus, dell'albergo Klaus che c'è tuttora, che aveva una bella volta a botte che poteva tenere, l'ingegner Ferrari aveva detto che insomma poteva reggere, e ci filiamo là sotto con i contadini, con i ristoratori, tutti noi, quando incominciano a esplodere le bombe. E un fracasso che non vi dico, io non so, qualcuno di voi ha vissuto quei momenti. Il momento più terrificante secondo me era quello che precedeva, quando si sentiva avvicinarsi e crescere il rumore degli aerei, era qualcosa di lugubre, di insistente, sempre più forte, sempre devastante. Poi a un certo punto si sentivano i colpi, erano i colpi della contraerea, io mi ricordo la contraerea italiana che faceva dei ciuffi bianchi e la contraerea tedesca che invece sparava dei ciuffi neri, in alto si vedevano, poi dopo i bombardamenti cadevano e quelle che noi raccoglievamo come erano delle stagnole, delle stagnolette che servivano per disturbare i collegamenti radar, i collegamenti radio, e li raccoglievamo per impreziosirne gli alberi di Natale. Comunque comincia a tremare la terra, noi sotto terra in cantina a pregare il rosario, naturalmente in tedesco, l'avevano avviato i contadini del luogo, i tedeschi, ed era un rosario che ho notato allora curiosissimo, perché tutti urlavano il rosario nell'illusione di non sentire evidentemente il fragore delle bombe che cadevano anche vicine. È sempre più veloce, era un rosario velocissimo, affannoso, urlato. Davanti a me, dall'altra parte della cantina, sedeva la Treas, la figlia del proprietario, del Klaus, che me la ricordo ancora, aveva 2-3 anni più di me, urlava a bocca aperta e turandosi le orecchie per non sentire, la terra tremava. Dove Dio vuole, si alzò il prete che era salito al colle per celebrare nella chiesetta la messa di Natale, era un frate francescano, si mise al centro e ci impartì la soluzione in articulo mortis. Non accade niente del genere, per grazia di Dio, io sono ancora qui a raccontarvela. Gli aerei se ne andarono e noi tornammo in casa per mangiare il pranzo di Natale, che era ormai freddo, quando si sparse la voce che erano arrivati dei paracadutisti. Naturalmente noi bambini scendere giù di corsa, anche i nostri genitori, e entrai nella stube del Klaus, che c'è tuttora, la stessa stube, quelle pareti in legno, e vidi di fronte a me questo signore seduto con un occhio nero. Poi venni a saperlo successivamente, proprio quest'anno, una cosa molto interessante, era il colonnello Jean Baierli, comandante di quello squadrone di 40 aerei che scaricarono 300 bombe nel giorno di Natale e che fu colpito l'aereo da sopra il colle verso Ora. Fu colpito, precipitò l'aereo a Rencio e il signor Stefani, che ha la libreria in Corso Libertà, cartoleria, mi racconta che era lì e che andava da ragazzino, anzi era più che un ragazzino lui, a rubare pezzi di gomma poi sulle ruderi dell'aereo e sui reti dell'aereo per farne delle suole per scarpe. Dei sopravvissuti, 4 morirono nell'aereo, aviatori, e 2 presero terra nella zona di Ora, 2 al colle, e 1 morì infilzato in un, era sceso col paracadute, povero ragazzo, in un vigneto, nel palo di un vigneto, poi degli altri non so. Questo sopravvisse con un altro, per l'appunto, che però era ferito e che non vidi, e vide noi bambini, c'era una corona di persone attorno a lui che lo guardava come fosse un mostro, io me lo ricordo, molto elegante, e tirò fuori il portafoglio e ne estrasse delle fotografie che ci fece vedere i suoi figli. Erano i suoi figli. La cosa mi colpisce un po' anche adesso, come voi avrete modo di vedere. Lo accompagnarono a valle i contadini armati di fucile e il fucile da caccia, assieme all'altro, e lo consegnarono ai tedeschi, che lo internarono, venni a sapere dopo, perché mi interessai di questo caso, perché credetti che l'avessero fucilato, perché accade poi questo, che una signora che era là, che era un fervente nazista, la signora Staudacher, una ragazza per la verità, figlia del macellaio di Piazza Ebrea, che tra l'altro gli misurò un ceffone, ci disse che era inglese, invece non era inglese, era americano, ma io leggendo le cronache dell'epoca, anzi del 45-46, fosse stato fucilato da Max Schiffer, che poi, tra parentesi, Max Schiffer per questi altri reati fu preso dagli americani, trasferito a Caserta, condannato a morte e impiccato a Livorno. Riuscì a entrare in contatto con, grazie a Mario Rizza, al maresciallo Mario Rizza, che è abilissimo nello sfogliare gli archivi storici americani, che non sono evidentemente così riservati come quelli italiani, e mi diede tutta la composizione di quella era, tra cui il nome del colonnello Jean Byerly. Entrai in contatto, riuscì a entrare in contatto tramite internet con suo nipote, mi mandò la foto di suo nonno, e qua immediatamente riconobbi, a distanza di tanti anni, il colonnello Byerly, che, ripeto ancora, comandò l'incursione su Bolzano il giorno di Natale del 1943. Bombe su Bolzano, ancora, bombe su Bolzano, ancora. Vedete giù in basso, queste sono foto, ve l'ho già detto prima, scattate da bordo di aerei americani. Sotto vedete lunga nuovamente del tutto priva di costruzioni. Aspettate, voglio farvela vedere, sottolineare ancora una volta. Corso Italia si chiama così oggi, no? Allora era Corso Giulio Cesare, questa naturalmente è via Roma, no, Ponte Druso non è quello, scusate, questo qua è l'Isarco, no? No, questa è la Talvera, e questo qua è l'Isarco, ecco, Ponte Druso è questo. Ancora aerei, sempre che i B-17 e il quale vi diceva, questo ve la propongo, anche questo qua è il lager di via Resia, non questo grande, questo piccolo. Questo è via Resia com'era allora, guardate un po', non c'era una casa, una. Guardate, tutto deserto. Questa è la strada per Merano, qua è tutti i quartieri nuovi di adesso, non si risognavano neanche. E cominciamo a vedere gli effetti delle bombe, qua siamo in Viale Trento. Questo è Franz Hofer, il Gauleiter dell'Alpenvorland, le tre province, ho detto prima, di Bolzano, Trento e Belluno, che in un certo senso erano state aggregate alla Germania. E qui sta imponendo un gruppo di Schützen, che gli Schützen furono poi chiamati all'ultima resistenza. Il Duomo di Bolzano. Voglio farvi notare una cosa del Duomo di Bolzano. Questo è il campanile che qua non appare. Questo è il campanile che non è stato mai costruito. Se voi andate dietro il Duomo, vedete che c'è questa costruzione mozza fino a questo livello. Originariamente il Duomo di Bolzano avrebbe dovuto avere due campanili. Curioso, no? Queste sono le cosiddette scuole allora Cairoli, si chiamavano Goethe, divennero scuole Cairoli durante il fascismo, poi nuovamente scuole Goethe. Qua morirono numerosi militari germanici. L'indomani, nei giorni successivi, lessi sui giornali dell'epoca, cioè in particolare, anzi esclusivamente sul Bozen Tagblatt, numerosi necrologi di bambini. Questo è il palazzo, l'attuale palazzo delle Generali in piazza oggi Walter. La riconoscete questa? La stazione fu colpita naturalmente più volte. Adesso parliamo di Richard Reitzamer, e vi ho detto che ci furono condanne a morte a Bolzano, numerose. A Bolzano esisteva la Villa Briegel, che forse qualcuno di voi ricorda, che si trovava in via Diaz, che fu poi abbattuta e ospitò anche la Volkspartei, fu poi abbattuta per farne purtroppo un condominio, era un bel villino. Là si riuniva il Tribunale Speciale Germanico, che comminava condanne frequentemente a morte per imputazioni come collaborazionismo, come diserzione, come c'era chi si rifiutava di di accedere alla leva, c'era addirittura chi il primo esame, la prima condanna a morte, pensate, fu combinata nei confronti di un certo Stenico di Salorno, di quella zona là, che aveva rubato 70 kg di cavo di rame della Wehrmacht, perché da contadino intendeva vendere questo rame per farne del solfato di rame, irrorare i cosi, i vigneti, no? Ecco, fu condannato a morte. Adesso io vi voglio leggere cosa scrisse a suo riguardo Don Nicolli, che forse voi ricorderete e che vedremo dopo. Don Nicolli era il cappellano delle carceri di Bolzano, originario del Basso Sarca, assistette numerose, forse tutti, i condannati a morte di Bolzano e in particolare anche quello Stenico del quale va detto in precedenza, Ettore Stenico. Ecco cosa dice Don Nicolli nelle sue memorie. Verso le ore 20 del 27 viene prelevato dal carcere e portato al palazzo di giustizia. Alle 21 sono preso il condannato, ha i piedi saldamente legati con catene e gli occhi fuori dalle orbite. Non vuol morire, non sente di aver fatto un così grave delitto da meritarsi la morte. Più volte si butta in terra, piange, chiama la mamma, i fratelli e i parenti, gli offre un bicchiere di cognac, parla del suo caso, non è capace di convincersi che lo abbiano a fucilare. Poi più avanti, alle 4 viene un ufficiale che legge la sentenza. E poi più avanti, torno alle parole di Don Nicolli, l'esecuzione sarà alle 5 del mattino. Di peso si butta a terra, lo rialzo con tutta la forza, viene fatto salire su un camion, ma io lì sono sempre a fianco alla sua sinistra, mentre alla sua destra sta un ufficiale dell'SS. Si parte in preghiera e si arriva al vecchio bersaglio di Aslago. Giunta l'ora, due soldati lo prelevano di peso dal camion e lo legano al palo. Io gli raccomando l'anima e gli do ancora l'ultima assoluzione, una scarica di crivellato di pallottole. Le esecuzioni avvenivano nel bersaglio di Asiago, nel bersaglio di San Maurizio, a strutture militari che si trovano tuttora vicino, in prossimità dell'Adige. E particolare che descrive Don Nicolli, che assieme ai condannati a morte portavano le loro casse di legno, no? E la cassa era coperta nella sua parte bassa di segatura che serviva ad assorbire il sangue. Bombardamento a Piazza Walters, vedete subito dopo il bombardamento, qua c'è l'UMPA che sta lavorando, inizia a lavorare per cercare di riattivare la situazione. Questo anche dopo un bombardamento, vedete che per la strada, per via della posta, ci sono ancora dei frammenti di cose varie. Questo non lo riconoscete di sicuro. Via della Mostra, via Gruber, esatto. Questo portico non c'è più. Qui c'era Varesco, vi ricordate? Qua c'è il Monica, ecco. E c'erano due portici. E non hanno ricostruito il secondo per poter più agevolmente far passare il tram. Figuratevi che c'è il tram, vedete qua, che passava, passando un po'. Il tram di Bolzano era un tram curiosissimo, perché aveva un solo binario. Andava un po' a destra e un po' a sinistra, un po' seguendo la mano, un po' contro mano. Non fu ricostruito e quindi questa era via della Mostra, come era all'epoca. Questo è il momento successivo di Viale Trento. Qua vedete, intuite, se ben ricordo, se ben mi pare, il liceo classico dovrebbe essere, ma non sono sicuro perché si cerca la posta qua, c'è un po' una confusione. Qua siamo in piazza Municipio, qua inizia via Grappoli, vero? Il municipio è qua dietro l'angolo, qua dietro l'angolo. Questo è ancora il viale Trento, sì. Questo è il vecchio teatro di Bolzano. Diceva un signore prima che ha visto un pezzo di teatro di Bolzano e ce l'ho fatto portare io, tra parentesi, io mi assumo questo piccolo onore, e nel parco della stazione, lungo la strada, perché io insisto, questi pezzi che voi vedete qua, anche questa fontanella, sono tuttora reperibili, si trovano alcuni in piazza Mazzini. Buttati là, altri si trovano... pattumiera. Uno serve da pattumiera, esatto, ha ragione, serve da pattumiera, perché l'hanno messo sdraiato, insomma, in orizzontale, e adesso su quel leone che una volta buttava dell'acqua, ci buttano immondizie. Tutti questi pezzi, vedete questi angioletti qua per esempio, e questi si trovano ai bagni di Zolfo, allora io ho suggerito che quelle parti che siano qua rappresentabili siano trasferite dove c'era una volta il teatro a futura memoria, e hanno incominciato con una di queste colonnine qua e mi hanno assicurato che adesso c'è già il progetto per trasferire quello che è trasferibile nel parco, non dove sorgeva il teatro, ma a ridosso dell'Aurin. Il teatro, pensate, fu ultimato nel 1918, in piena guerra gli Asburgo riuscirono a condurre avanti il lavoro, e era bellino, era piccolino ma bellino, esatto, era un gioiellino, sì, una bomboniera. Oggi non si arriverebbe più perché è troppo piccolo, però per l'epoca poteva andare bene. Max Littmann ne fu il progettista, era un architetto di Monaco di Baviera, e fu una delle belle opere di quella sana amministrazione che è stata l'amministrazione del sindaco Julius Peratoner, 27 anni, sindaco di Bolzano. Questo è il palazzo Toggenburg, distrutto. Sapete perché voglio farvi vedere questa foto? Per sottoporre la vostra attenzione a questo bel ragazzino qua, che sono io. Questa è la processione del Corpus Domino del Sacro Cuore, non so, dei francescani, né? Io servivo messa ai francescani, cantavo nei cori dei francescani, e così ho fatto anche, e mi sono ritrovato. Questa la riconoscete? Prima era l'8 settembre, dopo l'8 settembre. No, dopo l'8 settembre. Questa è dopo la guerra, che la fotografia che le ha fatto vedere prima. Vedete, sì, qui avrò già una dozzina d'anni. Sì, ci sono i carabinieri, esatto, in alto uniforme. E questi sono i nobili bolzanini, sapete come usano qua gli altoatesini, sui tirolesi, no? Fanno la scorta d'onore i nobili bolzanini con questi vecchi vestiti, questi vecchi abiti seicenteschi, diciamo, più o meno, in raso o damasco nero. Ecco qua come era ridotto la chiesa dei Domenicani di Bolzano, che era sconsacrata, è stata sconsacrata nella seconda metà del Settecento dall'imperatore illuminato Giuseppe II, figlio di Maria Teresa, che si adoperò contro lo strapotere ecclesiastico e secolarizzò molte cose della curia di Trento, che allora era competente. Tra l'altro nacque in quella occasione Piazza Walter, ma non ve lo sto a raccontare perché altrimenti diventa troppo lungo. Comunque Piazza Walter era una proprietà, era un grande vigneto di proprietà del vescovo. E l'imperatore, il re di Baviera, che succedette per via traverse poi a Giuseppe II, vendette questo grande vigneto al comune di Bolzano per 3.000 gulden, con il patto che il comune ne facesse una piazza, cosa che poi è avvenuta. Questo è il circolo ufficiali, questo è il cosiddetto l'hotel Zursonne, questo all'origine erano le sale civiche, le Bürgersale in epoca asburgica, che divennero poi sale civiche, multiuso, facevano concerti di tutto, poi circolo ufficiale, e poi furono distrutte. Qui sono ancora parzialmente in piedi, poi furono del tutto rase al suolo. Dove siamo? Questa qua è via dei Porti. Qua c'era l'Electronia, bravo, l'Electronia. Questo è un autocarro dell'esercito americano. Ve li ricordate i vecchi Dodge che si vedono adesso nei film di guerra americani? No? Questa è la chiesa dei francescani dove io servivo messa. Questa è una foto che io sottopongo alla vostra attenzione anche per il suo contenuto umano. Qui viene portato in salvo un ferito, lo vedete? Qua c'è la, scusate, qua c'è la suora in primo piano che si allontana di corsa con una borsa che evidentemente conteneva o contiene dei generi sanitari, e qua c'è il sdraiato, il ferito, un soldato tedesco che assiste alla scena, qua c'è un francescano. E la chiesa dei francescani era distrutta nella sua parte, nella sua prima parte, ecco. Nessuno lo riconosce. Rainerum, questo è il Rainerum, fatto costruire da Elisabetta di Savoia Carignano, bravo, Savoia Carignano, che era figlia, anzi sorella di Carlo Alberto, principe re di Sardegna, ed era consorte dell'arciduca Ranieri d'Asburgo, che è stato viceré del Lombardo-Veneto e che riposa tuttora nel Duomo di Bolzano, dietro l'altar maggiore. Se vi faccio il giro dell'ambulacro vedrete la tomba dell'arciduca Ranieri. Restata vedova, la principessa Elisabetta fece costruire l'Elisabettinum, che pertanto prende il nome da lei e non da Elisabetta, consorte di Francesco Giuseppe, come taluni credono, e il Rainerum, intitolato naturalmente a suo marito. Liberazione, esce l'Alto Adige. Il primo giornale a uscire dopo la liberazione fu il Dolomite, un paio di giorni dopo l'Alto Adige. Quotidiano del Comitato di Liberazione Nazionale di Bolzano. Qua siamo davanti al Monumento alla Vittoria. Il fatto curioso del Monumento alla Vittoria è che durante il fascismo fu centro di destinazione finale di tutta una serie di manifestazioni fasciste, naturalmente, no? Ogni volta si terminava là con corone, discorsi e bande. Dopo la cosa continuò, e continuò perfino, cosa curiosa, in epoca quando c'erano i britannici qua ancora a comandare, gli americani, come punto di ritrovo c'era il Monumento alla Vittoria. Qua viene data una medaglia, questo è un ufficiale inglese, questo è il commissario prefettizio De Angelis, mandato lì dal comitato di liberazione, questa è la moglie di Manlio Longhon con le due figlie. Manlio Longhon, direttore del Magnesio, partigiano, strangolato nei sotterranei del Quarto Corpo d'Armata, vi ho detto in precedenza di Max Schiffer, che fu responsabile e fu condannato a morte, ma non credo per quella morte, lo fu per la morte dei prigionieri americani e inglesi. Morirono altre persone al corpo d'armata, e ho qui con me anche, troverete anche nel libro, la descrizione di come avvenivano le torture. Morì là e si suicidò Gian Antonio Manci, che si buttò nella tromba delle scale per non parlare, per non raccontare, insomma, cose che avvennero in questa città che per noi è la nostra tranquilla Bolzano, ne ha vissute, insomma, sono cose oggi impensabili. E qua, tornando al discorso di prima, diciamo sempre davanti al corpo, al Monumento alla Vittoria, che però qui non è inquadrato, ma qui c'è un passaggio delle consegne dagli americani agli italiani. Questi sono esponenti militari della Folgore, perché la Folgore, che combatté con l'Italia fascista fino a Delle Alamein, rinacque poi con il re che, come voi sapete, si trasferì a Brindisi. E da lì risalì la penisola a fianco degli alleati. Qua c'è un passaggio di consegne quando se ne andarono gli americani, e qui vedete, danneggiata dalle bombe, anche qua preso dalle bombe, la casa Incis, le Incis di Ponte Tasder. Vediamo quante ce ne sono ancora. Qui siamo sempre al monumento alla vittoria, e qui vedete l'italiano e l'americano, sempre in quella occasione. Questo è l'interno del palazzo finanziario. Sapete perché questa fotografia? Perché questo blocco era, in epoca fascista, questa era la casa del Littorio, ho detto prima, no? Era una enorme ed unica stanza, alta 10 metri, che era la stanza delle adunate, dove il federale, Mastro Mattei, Podestà, eccetera, eccetera, teneva i suoi, li chiamavano rapporti, un'enormità di costruzione. In questa sala, che qui vedete a metà, e vi dirò poi perché, si riunì dopo la guerra il tribunale militare alleato e anche la sezione speciale della Corte d'Assise di Bolzano, la quale ultima giudicò, condannò ed assolse tutti coloro che si erano macchiati le mani in epoca nazista, quindi collaboratori, delatori, assassini e via cantando, e custodi del lager di Viareggio, non pochi tra l'altro. Vedete che il soffitto è bello a cassettoni, però non è così alta la sala, perché? Perché hanno costruito questo pavimento, la sala è segata a metà, sotto c'è un'altra sala di uguale dimensione. Questo tavolo reca la data del 1942, e che vuol dire, l'ho visto io, e che vuol dire che è stato portato lì nell'anno in cui sono terminati i lavori di questo edificio, e questo vuol dire anche che a questo tavolo sedevano quindi queste corti che condannavano e giudicavano. Dietro queste pareti ci trovano degli affreschi d'epoca fascista che sono stati cancellati, cioè ricoperti di calcina, e ci sono, non si sa di chi siano, probabilmente di qualche eminente artista sud tirolese, però si dovrebbe andare a scoprirli, sono andato per curiosità. E questo credo che sia l'ultima immagine, questo è l'avvocato Walter Löf. L'avvocato Löf, padre del dottor Guido Löf, tuttora vivente. Questa foto me l'ha data appunto il Guido Löf. L'avvocato Guido Löf aveva vediamo se riesco a trovare la pagina. Sì, l'ho trovata. Finì nel lager di via Resia in quanto ebreo, e là fu torturato finché morì. Vi voglio leggere, fu da quella corte che avete visto in precedenza, fu giudicato e condannato colui il quale lo torturò, che era tale Josef Mittermeier, mi pare. Mittermeier, sì, di Nova Ponente. Vi voglio leggere brevemente cosa si divertiva a fare questo Mittermeier, che fu condannato a questo povero vecchio avvocato. I testimoni, parliamo adesso del processo, per lo più ex internati di lingua italiana e di lingua tedesca, sono stati unanimi nel dichiarare come l'accusato, cioè il Mittermeier, si fosse comportato in una maniera inumana con numerose vittime, specialmente con il compianto avvocato Löf, di cui egli si fece volontariamente carnefice. Attraverso la parola dei testi, alcuni episodi di bestiale crudeltà sono stati rievocati fra il raccapriccio del pubblico, vi sto leggendo l'Alto Adige, del 28 novembre 1945. Numero causa pubblico presente all'udienza. Gli atti di sevizie contro l'avvocato Leif, numerosissime volte percosso, fatto braccare, mordere dai cani del campo aizzati lì contro dal carnefice Mittermeier, che lo costrinse a ingerire il suo sterco. Cioè sterco dello stesso Leif, e lo terrorizzò minacciandolo sadicamente di fargli schiacciare la testa con le ruote di un autocarro messo appositamente in moto. Hanno particolarmente impressionato l'uditorio. Mittermeier lo costringeva anche a portare grosse e pesanti pietre, ma credo fosse ormai in età assai avanzata. Inoltre percuoteva le sue vittime al capo con un mazzo delle sue pesanti chiavi. In pratica il Mittermeier faceva mettere la testa sotto una ruota del camion, lei avviava il motore, gli diceva: ti schiaccio la testa, e quel poveretto se la faceva addosso. Dopodiché il Mittermeier lo costringeva ad affondare la sua faccia nelle sue feci. Queste sono cose che avvengono. Leggerete di queste cose e di tante altre cose nel libro che ho scritto, anche perché ho prolungato il mio esame nel 1946, in modo da poter riferire tutto quello che non si era detto fino alla conclusione della guerra, perché chiaramente dei processi e delle crudeltà e delle sevizie all'epoca non si scriveva, il Bozenattack, Blatt nazista sicuramente non ne parlava. Allora sono emerse queste cose soltanto dopo la guerra, quando iniziarono i processi, e io ho sfogliato l'Alto Adige degli anni successivi fino al 46 completo, in modo da poter riferire anche di questi episodi che in precedenza non erano stati raccontati. Tra parentesi, il Bozenthalblatt non parlava dei bombardamenti, ma diceva dei processi che avvenivano e delle condanne a morte, perché avevano naturalmente questi processi una funzione, oserei dire, educatrice, pedagogica, insomma facevano capire che la cosa era seria, che se qualcuno non si presentava alla leva sarebbe stati renitenti, disertori, sarebbero stati fucilati. Ecco, questo era Bolzano allora. Sono 5 anni trascorsi a Bolzano, 5 anni che alcuni di noi ricordano, non tutti in questa maniera, e che vorrei fossero ricordati anche in futuro. Sono cose che sono avvenute in questa nostra città, cose brutte, cose crudeli, le ho raccontate, queste e anche delle altre. Adesso non è che prendendo il libro vi dobbiate solo rattristare, dai, c'è anche più o meno qualche occasione di sorriso. Vi ringrazio della vostra presenza. Thank you.